Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Facce che rimangono indelebili nella memoria, magari perché sono belle, perché ci interessano, la ragazza che stava scappando su un tram, quella che non vedremo mai, oppure quello che ha incrociato in una strada che poi insomma portava te e lei o te e lui in direzioni opposte e inconciliabili, oppure ci sono facce che ti rimangono impresse per la loro stranezza, e il cinema naturalmente ha sete di queste facce. Ci ha proposto da sempre tipi particolari, come dimenticare le sopracciglia alzate di Totò, gli occhi sbarrati di Charlie Chaplin, le rughe espressive di Anna Magnani, però ci sono anche personaggi insomma che non avevano quella caratura artistica, però che avevano delle cose che non dimenticavi. Ecco, il personaggio di cui vi racconto oggi va oltre, non era certo un protagonista del grande cinema, eppure la sua faccia è diventata personaggio. Se avete voglia in questo momento, voi dovete andare su qualche sito dell'internet e vi cercate Jimmy il fenomeno, al secolo Luigi Origene Soffrano. Ve lo dico perché sto per parlarvi di una persona che sicuramente avete visto, molti di voi andranno a vedere e quando apriranno la pagina diranno: ah certo, ho capito chi è. Ecco, fatelo. Totò disse: ho girato in città, il mondo intero, una faccia da festa come te non l'ho mai visto. Grazie Prince, prego, già di che. E questo è lui, in un'intervista rilasciata per il programma Rai, bellissimo programma, Stracult del 2001, la prima delle due interviste che ha rilasciato in tutta la sua vita, non perché si negasse, ma perché nessuno andava a intervistarlo. Jimmy è uno pseudonimo e magari i giovani non conoscono questo nome, però come vi ho detto, insomma, se guardate la sua faccia non potete dimenticarla, gli occhi strabici, quel sorriso inebetito un po' con i lati della bocca rivolti verso il basso, quella risata isterica, grottesca, insomma, non voglio dire la faccia da scemo, però il concetto così veniva presentato, ecco. I was trying hard to win, save the world, be the king. I was out there in the race, trying hard to force the pace. Fools go, fool me too. Bright and shining, look brand new. Fools go, broke my heart, shone so brightly, then fell apart. We'll be right back. praticamente Jimmy è uno di quegli attori che si chiamano caratteristi nel cinema, cioè un attore secondario del quale magari ricordiamo il volto ma non il nome. E in più il caratterista è l'attore, come dire, condannato a recitare a vita lo stesso personaggio, magari del cattivo, oppure come era nella commedia italiana di quello perennemente citato, arrapato direi. Ecco, ci sono caratteristi che sono stati grandi attori e a scendere altri, insomma, che sono stati solo dei volti. Tra gli attori caratteristi, non so, mi viene in mente Bombolo, il compagno inseparabile di Thomas Milian, quello che diceva mi danno sempre gli sganassoni, quello lì. Ma invece crescendo mi viene in mente Tina Picca. Tina Picca era una grandissima attrice di cinema e di teatro, ma comunque condannata per tutta la vita a fare il ruolo della zia, della nonna, della mamma burbera, generalmente non sposata, eccetera. Un altro, non so, Enzo Cannavale, il napoletano buono e un po' pasticcione, insomma, stiamo parlando di attori notevoli, è riduttivo chiamare i personaggi secondari. E in un articolo del 1934 sulla rivista Esquire, il critico Gilbert Seldes dà questa definizione del caratterista. A differenza dei carismatici protagonisti, i caratteristi potevano essere grezzi, violenti, ironici, cattivi, crudeli e beffardi, e potevano dire quello che il pubblico forse pensa. È una definizione piena di eccezioni, ma in generale possiamo dire che mentre i protagonisti sono spesso quello che vorremmo essere, i caratteristi sono più simili a come siamo davvero. E Jimmy con quella faccia non poteva che fare determinati ruoli: il bambinone, lo scemo del villaggio, quello preso in giro da tutti, tra lo squilibrio mentale, insomma, e la poco quoziente intellettivo. Ecco, così veniva presentato. In realtà lo ha fatto così bene da far sorgere nello spettatore il dubbio che fosse così nella vita reale. Io che l'ho conosciuto ve lo posso dire, sì, era così. Però provocava anche, attirava simpatia. Per esempio, questo attore Renzo Ozzano parla così di Jimmy nel programma Una faccia una razza su Cinemovie. Jimmy Fenomeno era proprio così, come appare lì, è proprio come appare nei film. Uguale. Quando lui entrava nei ristoranti la sera a cercarci, eccetera, con questa sua vocina, queste sue espressioni identiche, no? Ed era un portafortuna per un jolly, no? Heaven sent, your way is so damn hard. caratteristica, dialettale, simpatica. Lui è di Lucera, un paese in provincia di Foggia, nasce nel 1932 e da lì parte per fare il primo provino al Teatro Cicolella a Foggia. Siamo negli anni 50, stanno cercando comparse per un film di Turi Vasile con Totò, il film si chiama Gambe d'Oro, diciamo un esperimento di marketing territoriale, nel senso che cercano anche attori della zona, e la commedia all'italiana insomma sarà fatta molto con attori il nord, il sud, il napoletano, il siciliano, eccetera. La storia è semplice, c'è Totò che vuole vendere dei suoi giocatori di una improbabile squadra di calcio. Bene, il nostro Jimmy, cioè Luigi, sarà uno dei tifosi del Cerignola, insomma un tifoso ovviamente molto pittoresco. È difficile non voler bene a quel ragazzone dalla faccia buffa. Totò è colpito da questo personaggio durante le riprese, gli si avvicina e gli dice una frase che lui amerà ripetere: una faccia da fesso come la tua non l'avevo mai vista. Però detta da Totò, insomma, non è un'offesa ma quasi un imprimatur. Alla fine la faccia di Jimmy sarà la sua fortuna, lo spiega anche Steve Dalla Casa, critico cinematografico. Jimmy Fenomeno fa parte di quella serie di caratteristi di cui spesso non si sa neanche il nome, e nel caso suo pochissimi sanno che si chiama Origene Soffrano, per esempio, di cui non si sa il nome ma si conosce la faccia. Ce ne sono altri nella commedia, ma anche, non so, nei western, nei mitologici, negli Ercole, c'erano quelli, e sono quelli che vanno al cinema perché hanno una faccia. La seconda occasione per Luigi arriva molto più a nord, siamo a Riccione, siamo nel 1960, la Romagna gaudente estiva sta vedendo un film in un albergo, il film è un musicarello, i Teddy Boys della canzone, e i musicarelli sono dei film, lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, nei quali i cantanti, film pretesto, i cantanti colgono l'occasione di storie anche abbastanza fragili per cantare le loro canzoni. Bene, dopo la proiezione di questo film c'è una festa in piscina e lì ci sono tutti gli artisti, il regista, il produttore, c'è un'atmosfera goliardica e Luigi fa il buffone, diventa l'anima della festa. In realtà a Riccione stanno cominciando a conoscerlo tutti, è quasi più famoso dei personaggi dello spettacolo. Insomma, a un certo punto succede una cosa inaspettata, il proprietario dell'hotel chiama in disparte Luigi e gli dice che il produttore del film lo vorrebbe a Roma proprio per un nuovo musicarello che sta girando, Io bacio tu baci, con Mina e Celentano, non so, per dire, eh? E Luigi si avvicina al tavolo del produttore e lì ci sono altre personalità dello spettacolo, tra le quali Vania Proti, che era una famosa produttrice cinematografica. Ecco, Luigi racconta come nasce il fenomeno. Sì, no, vieni qua, c'è un produttore che ti vuole scritturare per un film, vuoi venire a fare un film a Roma? Io baci, tu baci, vabbè. Allora, però, la moglie di te, ex moglie di Teddy Riner, Vania Proti, se tu devi andare a Jimmy, le chiamate Jimmy il fenomeno. E da allora è incominciato a fare il film, Io bacio, tu baci, c'erano Mina, Adriano Celentano, Gianni Meccia, c'erano Paolo Ferrari. E da quel momento nasce Jimmy il fenomeno e diventa una presenza costante al cinema, e lui diventa anche testimone di momenti importanti del cinema italiano. Per esempio recita, se così si può dire, nel Federale, un film mitico del 61 con Ugo Tognazzi, lui interpreta lo scemo nella Corriera. Il regista è Luciano Salce, lo vuole anche l'anno dopo in altri due film, uno ancora con Tognazzi, La voglia matta, il secondo La cuccagna con Luigi Tenco. Insomma, lo cercano, probabilmente comincia a circolare la voce che Jimmy porti fortuna. Dopo la prima comparsata nel film con Totò nel 62 può già vantare la presenza in 11 film, e lo vuole Celentano in altri musicarelli, lo chiede Tognazzi nel Mantenuto. Insomma, anche il pubblico, a furia di vederlo, lo riconosce e sta diventando famoso, l'attore marginale più famoso del cinema italiano, sempre nei soliti ruoli: il matto, l'erotomane, l'assatanato, il barista, il fan di Celentano, il petomane, ruoli interpretati sempre a modo suo, con le sue risate sguaiate, con la sua mimica facciale inconfondibile, con i suoi versi gutturali. I'm the big wheel baby. shoes. I wear Ivy League jackets and white buckskin shoes. So many takers down the scene, heart, they're like a gold fuse. I'm the face, baby, is that clear? I'm the face, baby, is that clear? I'm the face if you want it. I'm the face if you want it, dear. All the others are third-class tickets by me, baby, is that clear? Tognazzi comincia a volerlo sempre sul set e poi lo frequenta anche nella vita di tutti i giorni. C'è qualcosa di incredibile in questa stranissima coppia. Un personaggio come Tognazzi che vuole andare a cena con Jimmy il Fenomeno, forse è intenerito, forse è incuriosito, forse un po' superstizioso. Lui comunque si fa voler bene, sembra un bambinone. Poi nell'ambiente si dice che tutta questa predisposizione nei suoi confronti fosse solo determinata da una questione di scaramanzia. Sentiamo Alvaro Vitali, che ha fatto vari film con Jimmy il Fenomeno. Ho saputo dopo tanto tempo che lui era, come dire, non la mascotte, quello che portava bene, il portafortuna di Tognazzi, questi mi hanno detto. E allora lui con questa cosa ci ha accampato fino adesso, perché ancora ci va, ancora dice dammi la mano, io porto fortuna, perché i registi, voi sapete che nello spettacolo quando si parla di Iella, di fortuna, è una cosa... E ancora crediamo a queste cose, per cui basta che lui dice io porto fortuna, magari una stupidaggine, ma gliela fanno fare. E con questa cosa è diventato uno dei caratteristici, poi funziona pure, perché poi è buono, è un amico, è un bonaccione, per cui è bello averlo lì con noi. E negli anni 60 lui gira tra i set di una trentina di film, nel 68 addirittura in Germania con un film giallo, La morte non ha sesso, e lì il regista Massimo Dalla Mano gli fa anche recitare una piccola parte, diciamo più concettuale. Poi c'è Vedo nudo di Dino Risi nel 69. Insomma, si comincia a capire che lui può avere un suo ruolo molto preciso in quel tipo di commedia, anche perché negli anni 70 arriverà la grande commedia sexy all'italiana. Insomma, film ingenui, un po' pecorecci, con battute semplici. Naturalmente lui non sarà mai protagonista, ma le sue apparizioni saranno sempre inconfondibili con i suoi sketch, diciamo, comici. Lui a volte è lo scemo del villaggio, a volte è il pazzo che dice quello che nessuno ha il coraggio di dire. Tweeter and the Monkey Man were hard up for cash. They stayed up all night selling cocaine and hash to an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained she loved the Monkey Man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99, and the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them. Of a cop never liked the Monkey Man. Even back in childhood he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Oh, you didn't think that this could last. Jan jumped up out of bed, said it's someplace I gotta go. She took a gun out of the drawer and said it's best if you don't know. The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew him long before he ever became a Jersey girl. Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida and get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man. The walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Il Falco. Il Gabbiano. Stiamo raccontando un personaggio il cui nome dice già molto, se non tutto. Jimmy il Fenomeno. All'inizio della puntata vi ho chiesto di andare a vedere la sua faccia, perché sicuramente questo vi avrebbe facilitato, insomma, nell'ascolto, perché è una faccia che non si dimentica, e sono sicuro che molti di voi avranno detto: ah, caspita, ecco chi è un personaggio particolare. Lui interpreta se stesso, volto surreale, risata isterica, insomma, probabilmente bisogna dirlo, quoziente intellettivo insomma non altissimo. Eppure questo strano personaggio si ritaglia una parte, viene adottato in qualche modo dal cinema italiano. È sempre il personaggio eccentrico, strano. Per esempio c'è il film Giorno dopo giorno disperatamente, dove Thomas Milliam interpreta un malato di mente, e naturalmente Jimmy è perfetto all'interno del manicomio nel quale viene recitato, viene fatto il film, al punto che c'è un'attrice che fa l'infermiera in manicomio, che lo scambia per un malato vero. E sentite cosa racconta lui al programma Una faccia una razza. Io facevo il film con Alfredo Giannetti, Giorno per giorno disperatamente, e facevo uno dei matti, tutto a trucco. A te non c'è bisogno del trucco, lavori così. Allora, durante l'ora di pausa, io camminavo e incontro una bella ragazza infermiera. Chi è? Da che parte sei tu? Non sono un altro, sono un padre. Mi mette nelle parti agitate invece. Il dottore: dove è Jimmy? Dove è l'altro? Non c'è. Ma quello è un nostro padre. È un nostro attore. Capitano, mi ha liberato la febbre a 40, lo spavento. insomma, il suo personaggio si sta delineando. Anche nel film Vedo Nudo, di cui abbiamo parlato prima, lo fa il paziente nevrotico che urla alla vista delle donne nude. Nel 75 Ferdinando Di Leo, pur di averlo, gli cuce addosso un personaggio preciso. Il film è colpo in canna, ci sono Ursula Andress e Lino Banfi, è un noir comico, diciamo un giallo rosa, si diceva una volta. Questo è un estratto di questo film, nel quale Jimmy incontra Ursula Andress, beato lui, e l'accompagna dal suo capo, e lui non riesce a far altro che balbettare e dirle quanto sia bella. Buongiorno. Buongiorno, bello, quanto è bello. È desiderata. Ho una lettera che si mette. Dio. No, devo consegnare alla persona. Ah, ma vengo con me. Che bello. Quanto è bello, era pure una bella voce. Venga, signore. E in quegli anni continua il suo rapporto con Luciano Salce, che diventa un po' il suo mentore e lo fa recitare in film che sono diventati dei cult del cinema italiano. So, L'Esorciccio, dove lui rotola da una montagna cadendo sulla strada, in corrispondenza di un cartello stradale dove c'è scritto Caduta Matti. E così fino agli anni 80 diventa partner, diciamo così, del commissario Gilardi, che sarebbe Ermonnezza, il mitico poliziotto romano interpretato da Thomas Millian. E poi, non so, c'è Delitto in Formula 1, nel film nel quale lui viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Sono innocente! Oh, ma te vuoi assassino! Oh, te vuoi assassino! Che ha fatto questo qua? Ha fatto le zozzerie sul tram. Non è vero niente! Ho fatto solo scoglie e basta! Che serpe, dove me ne vedi? Ma se mi scappa, come c'ho io? Io sono via la magia! Portato via, va, zozzo! Zozzo! Ma che Natale! Ma se poi negli anni 70 esplode il genere di film definito commedia sexy all'italiana. Le donne sono Edwige Fenech, Gloria Guida, Anna Maria Rizzoli, desiderate a turno da attori anche di grande caratura come Lino Banfi, Renzo Montagnani, c'è anche Alvaro Vitale, film che oggi vengono etichettati come trash, in qualche modo riscoperti con un diverso modo di sorridere. La comicità era piuttosto volgare, l'ingrediente era l'erotismo, ma l'erotismo di qualche seno intravisto da un buco della serratura, tutto era considerato dissacrante. Beh, i film diventano tutti campioni di incassi e Jimmy è un volto onnipresente in quel mondo. Ferdinando Di Leo, per esempio, farà dire questa battuta alla protagonista di Sesso in Testa, quando c'è Jimmy che bussa alla sua porta, sfonda il muro immaginario che c'è tra il pubblico e lo schermo, la cosiddetta quarta parete, no? Ecco cosa dice. Oddio, pure in questo film ce l'abbiamo. Ma come, non stai contento? Sono scappata adesso al manicomio per venire a trovare te. E poi poi arrivano i film seriali sulle barzellette, anche qui lui è sempre il matto o il maniaco. Questo per esempio è uno degli sketch più famosi, l'attore Gianfranco D'Angelo, il film è il mitico La soldatessa alle grandi manovre. Tutto a posto, ti tolgo l'occhio sinistro e ti lascio il destro. Pensi a capitano, dio pure fammi dare un occhio. Ma non dire sciocchezze, ma lo vedi che sei strabico così, ci vedi confuso, nebuloso, sei pure brutto con due occhi. Scusami, ma io lo dico per il tuo bene, invece ti tolgo il sinistro, ti metto una bella benda sul destro, così non ci vedi più un cazzo e ti danno pure il cane lupo, eh? Sì, il cane lupo mi piace, eh? Sì, sì, fa bu bu bu bu. You've done it all. Rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, how can you tell so many lies? Smile. I'll do what you want, running wild. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. Vabbè, vuoi tu Arturo Brambilloni prendere in sposa la qui presente Antonietta Pescucci? Lo voglio! Va bene, visto che l'amore vi acceca... In nome della Repubblica Italiana vi dichiaro fenomeni viventi, marito e moglie. Vi dichiaro fenomeni, finto lapsus di Renato Pozzetto, il film è Il Fico d'India, lui sta celebrando le nozze di Jimmy. E fenomeno, lui lo è nella vita, tanto quanto lo è sul grande schermo, con la sua faccia, con la sua voce stridula, insomma è sempre al limite tra il fenomeno baraccone sfruttato e invece il personaggio con la dignità del caratterista. I film sono veramente tanti, è impossibile contarli, c'è chi dice che... lui fa pena ai registi, c'è chi dice che porta fortuna, e questo è ancora Stefano Della Chiesa in Una faccia, una razza. Su Jimmy Fenomeno circolano storie contraddittorie, chi dice che viene messo nei cast perché porta fortuna, chi che viene messo nei cast perché se no lancia maledizioni portando sfortuna ai registi, e le due cose in realtà sono coerenti, quindi può darsi che siano vere tutte e due. Queste voci riguardo al portare fortuna si diffondono anche in un altro ambiente molto scaramantico, quello del calcio. Allora si comincia a vederlo spesso in Lega, in compagnia di pezzi grossi delle società calcistiche. Questa cosa diventa famosa. Negli anni Ottanta Ricci porta Jimmy in televisione nel programma mitico Drive-In, come spalla di Ezio Greggio. In trasmissione lui interpreta oggetti vinti dai concorrenti. Di solito è il portachiavi del Milan o lo scrondo, il mostriciattolo verde con la coda, con le orecchie a punta, i capelli biondi. In ogni caso è sempre lì che fa il pazzo urlatore. Purtroppo questo premio lo diamo alla memoria del signor Prispolo, che è scomparso, ma per voi ci sarà invece un premio di consolazione. Signori, lo scrondo! Questo bel oggetto, tenetelo! No, io non volevo! Quel genere di comicità comincia a esaurirsi e Jimmy comincia progressivamente a scomparire dal grande schermo. Però nell'89 c'è un grande regista che sta corteggiando Jimmy, ha un ruolo importante fatto apposta per lui. Il regista è Federico Fellini e lo sappiamo, lui è sempre stato affascinato dalle figure strane, dalle facce particolari. Lui cerca Jimmy in ogni modo e vuole fargli fare il magistrato nel film La voce della luna. Fellini non è ovviamente abituato a farsi dire di no, e figuriamoci da uno che ha fatto solo la comparsa. Bene, Jimmy è il primo, forse è il primo no di Fellini. Non può accettare la parte perché ha già dato la sua parola a Laurenti un anno prima per girare una comparsata nel film di Pierino. Insomma, lui perde la grande occasione per non infrangere una promessa, un nobile gesto, ma direi anche un suicidio artistico clamoroso. Dice di no a Fellini. E poi gli ingaggi finiscono e allora lo si vede sempre più spesso nei ristoranti romani della Roma gaudente fine anni 80, anni 90, ce lo ricordiamo tutti, arrivava al tavolo del personaggio conosciuto, gli parlava di qualche suo progetto, insomma, alla fine chiedeva dei soldi, insomma, viveva così, ti faceva fare due risate a modo suo e poi ti chiedeva la 50.000, la 100.000, sbarcava il lunario in questo modo, insomma. Tutti quelli che fanno il mio mestiere e che erano a Roma in quegli anni potrebbero confermare quello che vi sto dicendo. E poi ci si trasferisce a Milano perché le società sportive cominciano a invitarlo. Ricordiamo che lui porta fortuna e lo invitano durante le sessioni di calciomercato. In realtà porta fortuna agli altri, di fortuna lui ne ha avuta veramente poca, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Si appella alla legge